Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Altre volte, Rabbi, non t'eri accontentato di mezze misure. Le condizioni per essere tuo seguace e conquistarsi un posto nel regno era di dare tutto ciò che si aveva, anche la propria vita. Come mai per quello Zaccheo che diceva che avrebbe dato solo la metà esultavi? In effetti, pieno di gioia al sentirlo, proclamasti: oggi questa casa ha conosciuto la salvezza, perché anche costui è figlio di Abramo, e il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Non erano le parole più giuste da pronunciare davanti ad un pubblico che già brontolava. Loro si aspettavano di vedere apparire da un momento all'altro il regno di Dio, il regno dei poveri, degli umili, dei perseguitati, ed ecco che tu, che di quel regno eri stato il nunzio e assertore, ti mettevi a magnificare uno che fino all'istante prima aveva perseguitato poveri e umili. Tu stesso dovesti accorgerti del tuo errore e della loro ostilità, e forse con l'intento di rimediare ti mettesti a raccontare una parabola. Sfortunatamente fu la più astrusa e la meno misericordiosa delle tue parabole. Certo, ascoltando sarebbe stato necessario andare al di là del senso letterale per capire il senso segreto, ma non era tanto semplice farlo. T'eri messo a parlare di denaro, di profitti, di conti in banca, in casa di Zaccheo. Quant'era difficile la tua parola. Quanto bisognava amarti per non perdersi d'animo. Questo il racconto che il rabbi fece in casa di Zaccheo. Un nobile che andava in un paese lontano per esservi incoronato re aveva affidato ai suoi servi una somma di denaro, ordinando loro di trafficare fino al suo ritorno. I suoi concittadini, che lo odiavano, gli misero alle calcagna una delegazione che dicesse che non lo volevano come re. Quando egli fu di ritorno con l'investitura del regno, fece venire quei servitori ai quali aveva affidato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, il tuo denaro ha fruttato 10 volte tanto», e il re, contento, gli affidò il governo di 10 città. Poi venne il secondo dicendo: «Il tuo denaro, signore, ha fruttato 5 volte tanto», e si ebbe il governo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco qui il tuo denaro che ho riposto in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro. Tu prendi quel che non hai messo e mieti quel che non hai seminato». E il re a lui: «Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quel che non ho messo e mieto quel che non ho seminato. Perché non hai almeno depositato il denaro in banca, e io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse?» Poi, rivolto ai presenti: «Toglietegli quel denaro e datelo al primo servitore». Quelli obiettarono: «Ma, signore, egli ha già 10 volte tanto». E il re: «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quanto poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e scannateli in mia presenza». Rabbi, Gesù, lo so che se parlavi di denaro bisognava intendere qualche altra cosa, i doni che l'Eterno ci aveva concesso, e so che è peccato d'omissione e negligenza non usare per il bene degli uomini e la gloria di Dio i doni che l'Eterno ci ha concesso. Ma io che avevo solo quel che ti avevo donato, io, ascoltandoti, ero portato a identificarmi nel terzo servo. quello che, non avendo il senso degli affari, aveva tenuto il denaro nel fazzoletto. E tu con chi ti identificavi? Tu, la prima sera del nostro vincolante sodalizio, eravamo noi due soli, sotto le stelle, stretti nel mantello e una pietra per cuscino ad aspettare il sonno, ma avevi detto che eri un uomo duro, che prendevi quel che non avevi messo e mietevi quel che non avevi seminato. Eri tu, Signore, il re che esigeva che i suoi nemici fossero scannati in sua presenza? Certo, Israele aveva bisogno anche di uomini feroci se voleva liberarsi da Roma. Ariel e gli altri zeloti di Gerusalemme lo erano, ma tu non ci indicavi altra via. Dove stavano le tue parole d'amore, le tue esortazioni al perdono? Dove le lusinghe? Bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Pura propaganda? Luca scrisse che, partito dalla casa di Zaccheo, ti avviasti sulla salita verso Gerusalemme, dove entrasti cavalcando il puledro d'asina. Giovanni, però, racconta un'altra storia, piena d'avventura, di risvolti, colpi di scena, ingenuità e scaltrezza, splendore e miseria. Una storia che sarebbe dovuta essere infine il segno atteso e richiesto della tua divinità, una resurrezione da morte. Ora, noi sapevamo che in terre lontane, a Oriente, c'erano dei rabbi che riuscivano a star sospesi nell'aria e a entrare nella morte, richiudendosi in fosse senza acqua né cibo per poi tornare alla luce. Tu stesso eri riuscito a camminare sulle acque del lago, come testimoniavano alcuni dei tuoi, e avevi operato sulla figlia di un capo di sinagoga una malcerta resurrezione, forse dormiva, come tu stesso dicesti. Ma la resurrezione di Lazzaro di Betania fu diversa, pubblica e clamorosa, fatta a sfida di coloro, forse eravamo tutti, che ancora non credevano abbastanza. Stavamo dunque ancora fuori dalla Giudea, in uno dei tanti piccoli villaggi il cui nome non si ricorda, quando vennero ad avvertirti che Lazzaro, al quale volevi bene, il fratello di Maria e Marta, alle quali volevi bene, era malato. Non mostrasti sorpresa né preoccupazione. Questa malattia non è mortale, ma è gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia glorificato. Un'occasione dunque per manifestare la potenza dell'Eterno e la tua, come il cieco nato di Gerusalemme. Ma questa volta non ci dovevano essere dubbi. È lui o non è lui? È nato cieco o non è nato cieco? Quindi era necessario che il prodigio accadesse inequivocabilmente davanti a molti e non sospettabili testimoni. Nonostante la gravità della notizia, ci fermammo ancora 2 giorni nel villaggio dove ci trovavamo. Poi dicesti: andiamo in Giudea. I tuoi intimi dovevano essere tali da te informati sui tuoi nascosti viaggi a Gerusalemme, e forse avevi un po' accentuato i pericoli corsi. Perciò, nel sentire il tuo proposito, dissero allarmati: Rabbi, i giudei hanno appena cercato di lapidarti e tu vuoi tornare là? Rispondesti: non sono 12 le ore del giorno? Chi cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma chi cammina di notte inciampa, perché dentro di sé non ha la luce. Eravamo abituati al tuo parlare oscuro, l'accettavamo per quel che era, senza far domande, ma io poi mi tormentavo ad interrogarmi. Volevi dire che per te non ci sarebbe stato pericolo perché avresti camminato solo di giorno, magari muovendoti con cautela del serpente? Oppure che tu eri la luce di questo mondo e loro, che mascheravano con l'apprensione per te e la loro paura, non avrebbero corso alcun rischio seguendoti in Giudea. Ma chi sarebbe inciampato perché dentro di sé non aveva luce? Un giorno avevi detto: «Sta attento che la luce dentro di te non sia oscurità». E io m'ero sentito quella frase addosso, detta appositamente per me, dato che io ero restio a proclamare a gran voce e ad ogni momento che tu eri l'unto. I segni che davi non erano sufficienti e al diritto di criticarti non avrei rinunciato. Non ero un servo. Da libero vedevo che l'errore che avevi commesso in casa di Zaccheo e prevedevo quello che avresti commesso andando da Lazzaro. Non era forse un passo indietro sul cammino della gloria andare in soccorso di un amico al quale tra l'altro non mancava il denaro per i medici e medicine, e proprio a questo punto una resurrezione perché fossero rivelate le opere di Dio? Non ne avevi fatto abbastanza di prodigi? Quando grido rispondimi, Dio della misericordia. Dicesti: l'amico nostro Lazzaro si è addormentato, ma io andrò a svegliarlo. Non capivano e nemmeno avevano voglia di capire. Betania, il villaggio in cui Lazzaro s'era così poco opportunamente addormentato, stava proprio alle porte di Gerusalemme. E vi si potevano incontrare dottori, farisei, guardie del tempio e chissà anche mai soldati romani pronti a catturare il profeta con tutti i suoi seguaci. Perciò dicevano dentro di sé: ma che male c'è se si è addormentato, che bisogno di risvegliarlo. Allora dicesti apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché crediate. Santo cielo, ma se non facevano altro che dirti che eri l'unto, il veniente, l'atteso, il salvatore, che altro dovevano credere? Andiamo da lui, dicesti. Ci fu, nonostante tutto, un momento di perplessità, di indecisione, finché Tommaso, rivolto a noi, disse: andiamo anche noi a morire con lui. Partirono con risolutezza e io dietro. Mi veniva in mente il consiglio di Ariel di guardare le cose con un po' di senso del ridicolo. Simone, lo sapevo, portava un pugnale con sé nascosto sotto la tunica, ma Pietro esibiva, con imprevedibile scioltezza, una spada raccattata chissà dove. Cingiti la spada al fianco, o prode, vestiti della tua gloria e della tua magnificenza. Arrivammo senza incidenti alle prime case di Betania e lì ci fermammo per saperne un po' di più. Poiché Betania distava a circa 3 chilometri da Gerusalemme e ne era quasi un sobborgo, molti giudei della capitale s'erano recati da Marta e Maria per consolarle della morte del fratello. Avevano la casa piena di gente. Quando Marta seppe, un ragazzo mandato da noi la informò separatamente che il rabbi stava per arrivare, essa piantò tutto e gli corse incontro. Maria rimase seduta in casa con gli ospiti. Marta ci raggiunse tutta affannata e si gettò ai piedi di Gesù, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Però io so che adesso, qualunque cosa tu chieda a Dio, Egli te la concederà». Noi capimmo con emozione che gli stava chiedendo un prodigio eccezionale, una resurrezione da morte. E anch'egli capì che essa gli chiedeva ciò. Infatti le rispose: «Tuo fratello risorgerà». E Marta: «Sì, lo so che risorgerà, nella risurrezione dell'ultimo giorno». Era una risposta sorprendente. Poteva sembrare addirittura più ironica che amara, dopo che era stata lei a impegnarlo per il prodigio. Temetti che la sua collera esplodesse. Invece non esplose, anzi, pacatamente, egli disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» Anche il discorso del rabbi era sorprendente. Andava a parare nell'escatologia, mentre lì c'era un morto che, come venne specificato poco dopo, già puzzava. Comunque, Marta rispose come dovuto: «Sì, signore, io credo che tu sei l'unto, il figlio di Dio, che doveva venire al mondo». Pronunciata solennemente l'affermazione di fede, se ne andò. Noi restammo là, io pieno di sospetti. Troppe le ambiguità. Marta arrivò a casa, si avvicinò alla sorella e le sussurrò sottovoce: «Il rabbi è qui e ti chiama». Maria si alzò tutta emozionata e uscì di casa, e i giudei che stavano lì per confortarla, pensando che andasse a piangere davanti al sepolcro, non vollero lasciarla sola e le corsero prontamente dietro. Fu così che l'incontro di Maria, sorella di Lazzaro, con Gesù di Nazaret e la susseguente resurrezione da lui operata ebbero parecchi importanti e non sospetti testimoni. Maria, gettandosi ai suoi piedi, gli disse: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Egli, vedendola singhiozzare, e con lei anche i giudei che l'accompagnavano, fu scosso da tremito e si turbò. Poi chiese: «Dove l'avete sepolto?» Gli risposero: «Signore, vieni a vedere». Piangeva, e i giudei dicevano: «Guarda come lo amava». Altri però commentavano: «Ha schiuso gli occhi al cieco, non poteva fare in modo che costui non morisse?» Non gli erano ostili, anzi, in un modo o nell'altro, esprimevano meraviglia, curiosità, attesa. Arrivammo al sepolcro, una grotta il cui ingresso era sbarrato da una pietra. Nuovamente scosso da un tremito, il rabbi disse: «Togliete la pietra». Fu allora che Marta, sopraggiunta insieme ad altri, fece osservare che l'avevano sepolto ormai da 4 giorni, perciò sicuramente puzzava. Egli la guardò con rimprovero e le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra ed egli, lo sguardo rivolto al cielo, il volto splendente di maestà ad alta voce perché tutti intendessero bene, disse: «Padre, ti ringrazio per avermi esaudito. Sapevo bene che mi esaudisci sempre, ma parlo per la gente che mi circonda affinché credano che mi hai inviato». Poi, rivolto lo sguardo alla grotta aperta, con voce imperiosa gridò: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto, legato mani e piedi con bende, la faccia avvolta nel sudario, uscì fuori. Disse: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Era questo dunque il segno concesso a tutti quelli che non credevano affinché dovessero credere. Un segno clamoroso, solenne, pubblico, indubitabile. Rabbi, Gesù, io agli altri tuoi prodigi potevo anche credere, possedevi delle straordinarie forze metapsichiche, ma la resurrezione di Lazzaro fu una ponderata, fredda, scenografica ciurmeria. Ogni particolare era stato studiato per ricavarne il massimo effetto. Nessuna sottigliezza fu trascurata. la notizia della malattia portataci nel lontano villaggio, ma tu sapevi che Lazzaro già passava per morto, il tergiversare stando fuori dalla Giudea, il tuo sfuggente giocare con le parole tra addormentato e morto, e infine la notizia e la decisione, è morto e andiamo da lui e voi sarete obbligati a credere dopo che avrete visto quel che farò. Tanti altri, oltre a noi, sarebbero stati obbligati a credere. Betania non era a Gerusalemme, ma l'eco di ciò che vi avveniva arrivava facilmente nella capitale. La casa del defunto da resuscitare era un prominente del villaggio, benestante e legato ai borghesi di Gerusalemme. Sarebbe stata piena di gente e tu apposta avevi aspettato 2 giorni prima di muoverti, perché la notizia della morte si diffondesse e i giudei avessero tempo di accorrere. Al paese ci eravamo avvicinati cautamente. Non era il caso di correre rischi. Era bene avere informazioni sicure, d'altra parte l'ingresso doveva avvenire in una data maniera. Mandasti a chiamare le 2 sorelle, una alla volta. Ciascuna aveva un compito da assolvere. La prima ti informò della situazione, testimoniò con quella sconcertante uscita della resurrezione dell'ultimo giorno che suo fratello era ben morto, proclamò che eri l'unto figlio di Dio. La seconda ti portò un codazzo di giudei ben disposti. Allora, calcolando ogni gesto, espressione, parola, la ragionata invocazione al Padre, chiamasti Lazzaro fuori. Non riuscii ad evitare di vedere l'intera faccenda con un senso del ridicolo e la mia tentazione di crederti l'unto svanì. Il segno che avevi dato, o l'Eterno aveva dato per mezzo tuo, era indubbiamente di vanità. Ma mentre con dolore e rimpianto, se pensavo ai miei solitari sogni dei nostri primi giorni, perdevo la speranza d'una fede, acquistavo una certezza. Eri, a modo tuo, un condottiero. Certo, non lo splendido re che con vessilli e fanfare sopra fastoso carro di guerra muove contro i nemici di Dio e di Israele, ma eri comunque un capo. Sapevi trascinare le folle e anche infiltrarti tra le file degli avversari per poi cogliergli alle spalle. Con quegli inesplicabili viaggi a Gerusalemme avevi fatto un'esperienza ed ora la mettevi a frutto, separando coloro che non erano con te ma nemmeno contro di te e perciò recuperabili da coloro, capi dei sacerdoti, autorità del Sinedrio, che ti sarebbero stati comunque contro. E questi conveniva esasperarli, indurli a perdere la misura, ridurli ad una minoranza senza seguito, avversata dalla borghesia oltre che dal popolo. Inaspettatamente, al momento giusto, ti saltava fuori il senso politico. Prima di muoverci verso Gerusalemme, era bene che la città fosse a portata delle tue mani. Molti dei giudei che erano andati da Maria e Marta e avevano visto coi loro occhi ciò che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Alcuni invece, soltanto alcuni, andarono dai farisei per riferire. I farisei e i capi dei sacerdoti convocarono allora il Sinedrio. «Che facciamo?» dissero. «Quest'uomo compie molti prodigi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno a distruggere il tempio e la nazione». Non sapevano quale partito prendere. Ma uno di loro, Caifa, che in quell'anno era sommo sacerdote, disse: «Voi non capite niente. E non vi rendete conto che è meglio far morire un uomo solo per il popolo piuttosto di lasciare che tutta la nazione vada in rovina?» Non si capiva bene cosa egli intendesse dire dicendo «per il popolo». Comunque da quel giorno decisero di far morire Gesù e impartirono l'ordine che chiunque fosse a conoscenza del luogo dove si trovava lo denunciasse perché potessero arrestarlo. Il rabbi venne a sapere ciò e ne fu infastidito. Non si aspettava una risoluzione tanto drastica da parte del Sinedrio. Conveniva lasciare che ci pensassero sopra e che i giudei, appena conquistati con la resurrezione di Lazzaro, facessero sentire la loro voce. Per prudenza partimmo da Betania e ci ritirammo in una zona vicina al deserto, nella città chiamata Efraim. La Pasqua dei giudei era ormai prossima e molti salivano a Gerusalemme per purificarsi prima della festa, e in città e nel tempio cercavano Gesù di Nazaret e si chiedevano null'altro che: ne dite, verrà alla festa? Cresceva opportunamente l'attesa della sua apparizione. Se i profeti non potevano fare a meno di Gerusalemme, neppure Gerusalemme, a quel che sembrava, poteva fare a meno dei profeti, e Gesù di Nazaret, che insegnava cose nuove e compiva prodigi mai visti, era il più grande e potente profeta che si trovasse in quei tempi nelle terre di Israele. Queste cose che accadevano in Gerusalemme venivano riferite quotidianamente alla rabbi. Non era possibile non andarci. Alla Pasqua mancavano 6 giorni. Ci mettemmo in cammino e facemmo sosta a Betania, in casa di Lazzaro. Lì si respirava ancora l'aria del miracolo e continuamente arrivavano giudei per constatare che fosse proprio resuscitato, e lui, si capisce, si mostrava vivo e contento d'esserlo e proclamava che a tirarlo fuori dalla tomba era stato Gesù di Nazaret e che altro segno si doveva ancora attendere per credere che Gesù era l'unto, il promesso figlio di Dio. Quelli credevano. E insomma, era anche tempo di marciare su Gerusalemme. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.